Europa 24. Ha preso il via il 1 luglio il semestre europeo dell'Italia, ma il clou dei vertici comunitari sarà concentrato tra settembre e dicembre. Buongiorno da Sergio Nava, ben trovati all'appuntamento quotidiano con Europa 24. Il programma semestrale proposto da Roma a Bruxelles ha come titolo Un nuovo inizio. Ma qual è il nuovo inizio che l'Italia intende dare all'Unione Europea? Lo abbiamo chiesto al sottosegretario agli affari europei Sandro Gozi. Chiede di abbattere il muro dell'ipocrisia nella quale l'Europa si è rinchiusa in questi anni e ha preso tanta distanza rispetto ai cittadini, si è così allontanata dai cittadini. Questo muro dell'ipocrisia è quello tra quell'Europa che indica dei bellissimi documenti, obiettivi estremamente ambiziosi, grandi scenari di benessere, di piena occupazione, di sviluppo sostenibile, non si dà né le politiche né gli strumenti finanziari per raggiungere quegli obiettivi. Ecco, questo muro dell'ipocrisia va abbattuto se vogliamo che i cittadini ricomincino ad affezionarsi all'Europa, ricomincino a crederci. Questo è il primissimo punto, su un punto su cui abbiamo avuto già all'inizio del nostro semestre dei ritorni positivi sui quali bisogna lavorare, perché voglio ricordare che l'agenda strategica di fine giugno, in cui si indicano le priorità politiche dell'Unione Europea per i prossimi 5 anni, parla molto italiano, è stato per noi un anticipare le grandi priorità dell'Italia. E poi il presidente neoeletto della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, si è impegnato su alcuni punti concreti, operativi, che figurano nei nostri contributi e nelle nostre proposte e che sono essenziali per colmare quel divario di cui parlavo. Penso ad esempio a questo piano per gli investimenti pubblici e privati di 300 miliardi che Juncker si è impegnato a portare avanti davanti al Parlamento europeo e che è una richiesta italiana, una richiesta francese, perché è evidente che per colmare appunto il divario tra gli obiettivi e le risorse bisogna mobilitare tutte le risorse esistenti, bisogna vedere quali strumenti possono essere utilizzati anche per trovare nuove risorse per quegli investimenti nei settori chiave, penso alle infrastrutture, nelle telecomunicazioni, nell'energia, nei trasporti, penso alla ricerca, quei settori chiave e nei quali bisogna investire insieme a livello europeo se si vuole favorire veramente una ripresa della crescita su basi solide, in parallelo a quello sforzo di riforme strutturali nazionali che è fondamentale l'Italia faccia nell'interesse dell'Italia, ma è fondamentale che tutti i paesi facciano nell'interesse della zona euro. Se capisco bene, riforme, flessibilità e investimenti sono alla fine le tre parole chiave che dovranno in qualche modo caratterizzare questo semestre, è corretto? Sono assolutamente le priorità chiave, alle quali aggiungerei diritti fondamentali, perché l'Europa non può essere solo parametri finanziari, l'Europa deve tornare ai suoi valori d'origine e questi sono innanzitutto il rispetto dei diritti fondamentali, all'interno del quale ci sono anche nuove politiche dell'immigrazione e un nuovo sistema di diritto d'asilo europeo. Quanto però in così pochi mesi, alla fine da settembre a dicembre, si riuscirà a fare? Ma guardi, innanzitutto qualcosa a livello di impegni e di azione della Commissione l'Italia l'ha già ottenuto. Un altro risultato che è legato anche alle politiche industriali di crescita sostenibile è il vertice che terremo in ottobre, in cui l'Unione Europea dovrà prendere una posizione importante sulla lotta contro il cambiamento climatico in vista dei negoziati del prossimo anno. Poi noi sappiamo di porre dei temi che non sono dei temi che potranno essere completamente trattati e risolti durante il nostro semestre, ma che vanno assolutamente posti in un momento così strategico come quello in cui ci troviamo, che se da una parte è un momento in cui di ricambio dei vertici delle istituzioni, quindi di transizione istituzionale, dall'altra è l'inizio di quello che deve essere un nuovo ciclo politico e quindi è proprio il momento di cercare di orientarlo anche su grandi temi e su strategie che poi verranno sviluppate e attuate nel corso dell'intera legislatura europea. L'immigrazione è un tema molto caro all'Italia. Puntate in questo semestre ad arrivare, a dare in qualche modo a Bruxelles il budget per incidere attivamente sull'immigrazione? Assolutamente, noi continueremo la nostra politica, che è quella di un rafforzamento di Frontex, rafforzamento che è venuto dal punto di vista delle funzioni e che deve avvenire anche dal punto di vista del bilancio. Ed è tutto per questa edizione di Europa 24. Ancora un saluto e un augurio di buona giornata da Sergio Nava. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.